altro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Che settimana psichedelica, potremmo dire, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, nessuno potrebbe darmi torto, del resto, con tutte le cose che sono successe in pochi giorni. Voi vi rendete conto, da un sabato all'altro, quante cose capitano? Abbiamo, diciamo, un panorama politico, un parco politico di politici, per carità, piuttosto vivace, brioso, e adesso che siamo sotto elezioni, sentite un po' tutto questo lavorio che c'è sotto sotto, e poi naturalmente anche gli show, gli spettacoli, perché bisogna dire che forse negli Stati Uniti riesce ad attirare così tanto uno spettacolo dell'intrattenimento con dei politici a livello nazionale, naturalmente, come accade solo da noi in Italia. Sentite questa voce, per chi mi conosce, sono, diciamo che tra me e il freddo c'è della chiara inevitabile incompatibilità, diciamo che non ci amiamo reciprocamente. Sapete quella pubblicità che fa un po' senso, dice prigioniera del muco, ecco, questa è la situazione praticamente. Quindi, se dovessi davvero diventare completamente prigioniera, dovresti sprigionarmi, tra poco vi presenterò l'opinionista estemporaneo che prenderà lui magari la situazione in mano. Quindi vi dicevo, una settimana, non ho bisogno quasi di ricordarvi cosa è successo, ce l'avete benissimo in mente tutti, e sapete che questo è il nostro appuntamento mio con voi per fare un po' il punto, per ritornare con libertà sulle notizie della settimana. Il numero verde a vostra disposizione è 800 24 0024 800 24 0024, numero verde, quindi assolutamente gratuito in un momento in cui siamo tutti in crisi, e anche ecologico, perché evitate di disperdere energie e tempo e pensieri altrove e li convogliate invece qui tutti a Non ci sono più le mezze stagioni. Quindi vi dicevo, tra le varie notizie ha dominato, diciamolo, questa settimana questo che è stato definito giustamente lo show tra Santoro e Berlusconi, 9 milioni di ascolti circa, un record assoluto, e poi cercheremo di capire anche chi ha avuto la meglio, chi meno, e che effetti anche da un punto di vista giornalistico e politico ha avuto. È stato puro intrattenimento o è stato anche altro? Poi naturalmente tutte le forze politiche che stanno cercando le alleanze hanno presentato i simboli, poi ci sono i cloni, evidentemente ci sono dei partiti così ambiti che ci sono persino dei cloni di questi partiti, la clonazione anche dei partiti. E poi, per andare sulle note dolenti, sapete che c'è stata la bocciatura dell'Unione Europea dell'IMU, perché è ritenuta poco equa, non che debba scomparire, ma è ritenuta poco equa, dovrebbe essere più progressiva. La disoccupazione da record in Italia tra i giovani, 1 su 3 non ha lavoro. E poi l'Europa ha bocciato anche, ha condannato l'Italia per la situazione delle carceri, una situazione che Napolitano ha definito mortificante, conferma questa accusa. E poi Monti, che ha detto è finita, che è ancora Presidente del Consiglio, ha detto è finita l'emergenza finanziaria, ma non quella economica, e dice c'è stato questo affondo del Presidente del Consiglio, che ha detto sono stato costretto a mettere più tasse per colpa di alcuni irresponsabili. Praticamente ha fatto quasi nomi e cognomi, ma abbastanza chiaro, insomma, che si riferisse a governi precedenti. Poi il redditometro, molto criticato, Befera dell'Agenzia delle Entrate, ha detto non è uno stato di polizia, forse uno stato di carabinieri, non so bene cosa volesse dire. Poi tutti quanti, insomma, hanno detto sono pronte le liste, sono pronti i simboli. C'è stato questo incidente misterioso, insomma, ancora da chiarire, però in Venezuela, con l'aereo scomparso su cui viaggiava Vittorio Missoni, ancora continuano le ricerche. La sentenza della Cassazione che ha detto che anche nelle famiglie omosessuali un bambino può crescere bene, a proposito dell'affido a una donna che è andata a convivere con un'altra donna per amore. La morte di una grandissima attrice di razza e donna di grande levatura, che è Mariangela Melato. E c'è una buona notizia, secondo me, che la regina d'Inghilterra ha deciso che se Kate, la principessa Kate, avesse una figlia, potrà essere prima principessa e poi regina. Sapete che la legge salica dà questo titolo soltanto al figlio primogenito maschio, e mi viene il dubbio che ci sia una bambina nella pancia di Kate, ma sarà soltanto questione di attendere. E intanto, come sempre, il rito immancabile è dirci che cosa dimostra anche questa settimana che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere, sono un gran che... Da che mondo è mondo siamo tutti abituati a pesare le cose, a pesare anche noi stessi, no? Con l'unità di misura che è il chilo, il chilogrammo. Chilogrammo. Voi sapete che il chilogrammo, proprio il campione, è protetto a Parigi, esattamente nel Bureau International des Poids et Mesures de Sèvres, vicino a Parigi, sotto una campana di vetro, perché deve rimanere sempre il più possibile uguale a se stesso, nessuno poi lo deve toccare, manco fosse il gioiello della regina. Però che cosa si è scoperto? Uno dice il chilo, certo, il chilo. Eppure anche il chilo ingrassa e dimagrisce. Prima è stato lanciato qualche mese fa l'allarme che l'inquinamento lo fa crescere, si deposita soprattutto delle sostanze particolari, perché è fatto di platino, si depositano e il platino assorbe molto velocemente queste sostanze e quindi si appesantisce. Ma pare che il problema più grave recentemente sia invece che il chilo dimagrisce perché è poroso. Quando era stato fatto nel 1875, era stato fatto in un modo, diciamo, non perfetto come sarebbe fatto oggi, e quindi con tutta questa porosità, insomma, quindi capite che il chilo ci assomiglia, perché tutti un po' ingrassiamo, dimagriamo, e quindi diciamo proprio il chilo per antonomasia, noi rappresentiamo vari chili, e dimagrisce e quindi lo sentiamo più vicino a noi. Ma proprio nonostante questa circostanza di familiarità si è deciso che probabilmente si potrebbe abbandonare il chilo come riferimento fisico e passare a un'unità più teorica, la costante di Planck. Non chiedetemi adesso cos'è la costante di Planck, andatelo a vedere e magari ce lo suggerite anche durante la trasmissione. 800 24 00 24. Direi che dopo tutto questo preambolo, con una voce quasi da grammofono, non ho ingoiato un grammofono ma assomiglia, vi presenterei, signore e signori, l'opinionista estemporaneo di oggi. Vittorio Emanuele Parsi. Buongiorno. Ti vedo molto laconico, Vittorio Emanuele. Tra l'altro hai una maglietta, lo vedo adesso, si è spogliato, diciamo in modo morigerato, una maglietta sotto il maglione con lo scudetto dell'Italia, perché mi pare di aver detto che tu giochi a rugby. Sì, non a un livello così eccesso da meritare la nazionale in tutta la mia vita. Ma ho il privilegio di giocare con gli old del rugby Monza, anzi che saluto qualora fosse in ascolto. E questa è la maglia della Federazione Italiana Gioco Rugby. Sto guardando le tue braccia a vedere se c'è qualche ferita, qualche cicatrice epica, qualcosa. No, niente, no? Niente di tutto questo. Non sono stati contatti ravvicinati. Però Vittorio Emanuele Parsi non è, in toto uno sportivo. È prima di tutto un intellettuale, un docente di relazioni internazionali, Università Cattolica di Milano. È uno dei fondatori dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali, che è l'ASERI. Fa parte dell'Advisory Board della London School of Economics, insomma una serie di enti, di istituti internazionali. Io non ci avevo più posto per, né nella testa per memorizzare, né anche poi per scrivermi appunti. E tra l'altro è da due giorni, fresco, una pura coincidenza, perché io me l'ero già prenotato da qualche giorno, editorialista del nostro Sole 24 Ore. Esatto, è una coincidenza tutto fortuita, mi fa molto piacere, chiaramente, come potete immaginare, mi sento ancora più a casa. Quindi fa parte, diciamo, della squadra, oltre che del rugby, anche qua, del Sole 24 Ore. Ma Vittorio Emanuele ha scritto un libro, tu non ti offenderai, ma nella corsa che ho fatto me lo sono dimenticato di là sulla scrivania, e che si intitola La fine della disuguaglianza. Voi potete immaginare come sia rimbambita oggi tra una cosa e l'altra. La fine dell'uguaglianza, scusami, dell'uguaglianza, infatti come la crisi economica sta, magari fosse la fine della disuguaglianza, come la crisi economica sta distruggendo il primo valore della nostra democrazia. Questo sottotitolo pubblicato da Mondadori. Ma tra poco ci andiamo, Vittorio Emanuele. Invece io voglio farti subito una domanda cruciale, diciamo fondamentale, anche in seguito alle cose che sono successe in questi giorni. Ti vedo pronto, ti vedo concentrato. Secondo te, che cos'è quel plico di fogli che ha sempre in mano? È la sua copertina. La sua copertina? La copertina di Linus. Di Linus, giusto. Credo che sia, ma in questo poi non è diverso dai professori, da quando andiamo nei talk show che ci portiamo sempre dietro la penna, appunti, block notes, nella convinzione di dover consultare chissà che. Poi i tempi televisivi in genere non consentono niente di tutto ciò, ma credo che sia una forma di rassicurazione, oppure se è veramente un brillantissimo comunicatore, è il nulla, una presentazione che non esiste, che è in mano per vedere che per insomma, dire c'ho roba qui, un sacco di dati. Guardate, Vittorio Emanuele Parsi, voi sapete, io non anticipo nulla ai miei opinionisti estemporanei, ai miei ospiti, mai nulla, perché deve essere tutto succedere così al momento. È di grande intuito, l'avete capito, uomo brillante Vittorio Emanuele Parsi, perché io intendevo naturalmente Silvio Berlusconi. Avete notato che ha sempre questo plico bianco ripiegato, fammi pensare, nella mano destra, sì, nella mano destra, e tu qualsiasi trasmissione, qualsiasi incontro, intervista eccetera, ha sempre questo. Io ho pensato, tu dici giustamente la copertina di Linus, io ho pensato alla piuma di Dumbo, ve lo ricordate, l'elefantino volante, che lui aveva la capacità di volare, però qualcuno gli doveva dare qualcosa che lo rassicurasse, lui gli danno nella proboscide questa piuma, dicono guarda questa è la piuma che ti farà volare, e lui a un certo punto si lancia quindi dall'alto con queste grandi orecchie dispiegate e pensa di volare grazie alla piuma, infatti in un momento la perde e crede di precipitare verso il basso, poi dicono no, la piuma non era fatata, sei tu che sai volare, quindi potrebbe essere una perché cosa no, è genere. Anche un in senso metaforico alla Teddy Roosevelt, un randello per così dire. Vedo che tu tra le mani però, Vittorio Emanuele Parsi, non hai un'agenda. No. Cioè, ma così di moda ormai, se non hai un'agenda non sei nessuno a questo punto. Dall'agenda Monti anche Bersani parla di agenda, tutti parlano di agenda. Io per esempio sono una refrattaria alle agende, non me le regalate. A Natale qualcuno dice no, le sciarpe, le cravatte sono le cose più, i profumi. A me l'agenda, io non mi scrivo nulla, devo tenere tutto nella capoccia. Tu perché non hai l'agenda? Ma perché nell'agenda, ma così di moda, da Monti in giù, insomma alla fine poi non si trova mai niente di così interessante. Per cui tutto sommato perché scomodare questo termine dell'agenda? Le cose importanti si ricordano e poi in maniera un pochino più banale posso anche dire che in fondo l'iPad fornisce un calendario elettronico che ti ricorda tutti i giorni dove devi andare. Qual è secondo te il vero avversario in queste elezioni politiche del PD? Monti, perché alla fine è Monti che ha come obiettivo una parte importante dello stesso elettorato del PD. Innanzitutto, quindi una parte di coloro che potrebbero votare PD potrebbero anche votare Monti in maniera più consistente di quanto avviene con l'elettorato di Berlusconi, e lo dimostrano anche appunto quello che è successo come in termini di dati di sondaggi dopo l'episodio di Santoro. E in secondo luogo perché questi elettori sono concentrati in regioni strategiche, è proprio in Lombardia che il PD potrebbe perdere quei 2-3 punti percentuali che fanno la differenza tra la maggioranza al Senato e la non maggioranza al Senato. E quindi se io fossi Bersani smetterei di stare a prendere Berlusconi come bersaglio, che è facile, non importa chissà quale consenso, e mi concentrerei sul mio competitore, perché in politica si compete e il rispetto reverenziale è il modo più sbagliato per competere e per rispettare il popolo, che è il vero cioè dici sovrano. Dovrebbero essere più cattivi tra di loro, anche il PD compreso verso Monti, seppure l'abbia sostenuto fin qui, dice adesso sei il mio competitore, quindi intanto è Monti che non ha più sostenuto l'alleanza col PD, non viceversa, cioè quello che bisogna chiarire, perché altrimenti i fatti storici vengono girati, insomma tirati come l'elastico delle mutande. Nel caso del PDL, il PDL ha scaricato Monti. Nel caso del PD è Monti che ha scaricato il PD. Nel momento in cui ha fatto un'alleanza Confini, Casini e quant'altri, ha detto subito che il PD non era stato un leale sostenitore. Nello stesso giorno in cui dava vita al suo raggruppamento di centro, non lo so, raggruppamento, non sapevo neanche come definirlo. Adesso, per esempio, su Repubblica, e tra poco abbiamo la viabilità, primo titolo è Monti 2 punti, Dio ci scampi da destra e sinistra. E Berlusconi rilancia in TV con Bersani, adesso si è gasato da Santoro, tant'è che tutti i giornali titolano, almeno i principali, per esempio Corriere della Sera, cartaceo, dopo Santoro il PDL spera, ma anche su altri giornali insomma dicono che da lì potrebbe sentirsi un po' più rinvigorito Berlusconi. Ma è come se qualcuno dicesse Dio ci scampi da Inter e Milan, perché tiene, perché la sua squadra è la Carrarese, no? Allora la Carrarese esiste solo se Dio distrugge Inter e Milan. Non si offenda Carrarese, che noi ci teniamo la Carrarese. Però il problema è che destra e sinistra sono etichette, non c'è dubbio, ma che consentono la rapida identificazione di un set di interessi e valori che quando vengono anch'io aggregati, grosso modo, fanno di qualcuno una persona più tendenzialmente di destra o di sinistra. Quindi è chiaro che non vanno ipostatizzate, non stiamo più nel Novecento. Però attenzione anche a far finta che non esista, perché il dire l'importante è riformare, e non l'importante quali riforme si fanno e a spese di chi, perché questo è il punto fondamentale, chi paga il conto. Tra l'altro mi pare anche di aver letto, Vittorio Emanuele Parsi, che tu fai parte di un organismo di riflessioni strategiche del Ministero degli Esteri. Ora, che riflessioni strategiche fate, per esempio? Sì, siamo semplicemente un gruppo di persone che vengono convocate con molta poca frequenza in realtà, e che ha contribuito un paio di anni fa sostanzialmente a fare un libro bianco per la politica estera italiana, e che di tanto in tanto ancora i ministri hanno così la competenza di convocare appunto una volta ogni anno, cose del genere, quando hanno bisogno di un supporto, di riferimento, di ragionamento, di riflessione, ecco, niente di più. Il nome è gigantescamente pomposo, dici? Purtroppo nei curriculum. Infatti mi aveva impressionato parecchio. Lo so, ma se avessi potuto mettere Claudio e gli amici del Ministero degli Esteri, poi è che un Rotary Club. Esatto. Senti, allora così. Abbiamo il numero verde, poi parliamo del tuo libro perché è molto legato all'attualità, proprio in modo intrinseco, la fine dell'uguaglianza, come la crisi economica sta distruggendo il primo valore della nostra democrazia. Però c'è Angelo da Bergamo, il numero verde 800240024. Angelo. Buongiorno, grazie che mi avete chiamato, così riesco a esprimere una mia parte. Esprimi quella parte. Dunque, che vuoi. Sì. Io giovedì sera ho visto una cosa veramente da far venire un po' il mal di pancia. Domande già preparate. Stai parlando del servizio Berlusconi, pubblico? Berlusconi, Santoro, sì. Cioè Travaglio che ha attaccato Berlusconi in tutti i modi, tra lui, Dell'Utri, non Dell'Utri, poche domande. Però le risposte sembravano già preparate, un Berlusconi sì tirato, ma in sostanza dopo i 19 anni che è stato al governo ha saputo dare soltanto una risposta che non è colpa sua. Lì c'è un signor Parsi che è economista. No, ma non è proprio economista, è docente di relazioni internazionali, una cosa un po' più articolata. Comunque, ma sì. Io in questi 3 anni di lavoro faccio l'agente di commercio, mi sta calando il lavoro. Allora cerco di risparmiare in qualcosa, facendo meno strada, cercando di coinvolgere i clienti a venire a loro a prendere il materiale, ma qua questo buco si è sempre di più allargato, anche il signor Monti, l'IMU, ma l'IMU c'è, la fanti gli altri, prima non si potevano abbassare le tasse, adesso c'è da andare a votare, chissà perché queste benedette tasse si abbassano. Mi abbassano a noi? A volte i miracoli, Angelo, a volte i miracoli, sai, possono avvenire. Ma che miracoli? I miracoli succedono soltanto a Lourdes, a Maggiugorje, o Fatima, quelli sono i miracoli. Ma qua in Italia di miracoli soltanto uno. Io non voglio più parlare di politica, andrò a votare, perché vado a votare. Certo. Rispetto Bersani che non sta attaccando nessuno. Oggi ha detto che non è del mio partito, ha detto solo una cosa. Dopo un mese vedo quello che si potrà fare. E li farò, non prometto adesso quello che devo fare e quando arrivo là non lo potrò mantenere, perché sennò noi italiani saremo ancora presi e ripresi per i fondelli. Che non è del tuo partito però, Angelo, lo sì, stimi, sì. Lo voterò, lo voterò. Ho capito. Angelo, ti ringrazio. Ringrazio io te, Vittorio Emanuele Parsi, tra l'altro legato proprio al tuo libro, La fine dell'uguaglianza, no? Quindi tu dicevi prima, sì, le riforme, ma a spese di chi? Chi ne pagherà il prezzo? Questo è il problema, la crisi sta allargando, come più detto negli ultimi tempi, la forbice tra ricchi e poveri, no? Sì, anche perché nel frattempo non è che siano state fatte delle riforme sostanziali. Quello che servirebbe al nostro paese non è semplicemente l'alleggerimento del peso della politica, serve sicuramente un impianto di riforme liberali per far partire veramente un mercato e non la versione volgare del salottino dei beni introdotti dai tempi di Cuccia, che però è rimasta, cioè non c'è più Cuccia ma è rimasto un posto molto ristretto. Ma serve anche una riforma dello Stato, serve una riforma colbertiana contemporaneamente. Bisogna riformare lo Stato e il mercato, operazione per nulla semplice, perché è solo lì che a quel punto qualcosa può cambiare. E quello che diceva l'ascoltatore io lo capisco molto bene perché è vero, Bersani su questo a mio avviso sta comunicando bene. Innanzitutto rispetto a chi sostiene appunto di aver salvato il paese, rimesso tutto a posto i conti, cioè Monti. Dice, vabbè, facciamo così, guardiamo le carte e poi vediamo quanto a posto sono, come farebbe chiunque di noi se dovesse firmare un rogito, no? Cioè rituppano di casa, subentro, voglio vedere un attimo come sono messi veramente i tubi, perché apparentemente no, nulla funziona, nulla è così, non può essere una cosa molto diversa. Allora noi dovremmo chiedere sempre ai cittadini ed elettori di muoversi quando scelgono politicamente con un pochino meno di ingenuità di quando comprerebbero un appartamento. Io quando compro un appartamento voglio vedere, voglio andare a guardare anche sotto il tappeto dei muri, cioè guardo un attimo. Allora evidentemente, per carità, Monti avrà fatto sicuramente un ottimo lavoro, ma nel momento in cui qualcuno si sposta dal dire ero colui che ha fatto un ottimo lavoro, lascio le cose a voi ragazzi, vedete di continuare, ma dice no, siccome ho fatto un ottimo lavoro, continuate a sostenermi, a quel punto si va a vedere quanto ottimo questo lavoro è stato. Su quello che diceva della trasmissione, anche collegandomi a quello che dicevi tu, è incredibile come gli italiani, che hanno il massimo disprezzo per i politici, poi però guardano come famelici gli spettacoli di politica spettacolo. Beh, diciamo che è stato un grande trionfo della politica pop, no? Beh, forse siamo un po' al Super Bowl, ecco, nel senso appunto, che sia per l'audience sia per le accuse reciproche che si sono lanciate di cacciare balle reciprocamente, direi che il Super Bowl è quello che potrebbe essere l'etichetta, per così dire, di questa cosa. Dopodiché a me sembra anche un po' un effetto Grande Fratello, vedi quelli che sono lì, li guardi, li commisi, dici, ma forse è meglio noi, voilà. A proposito di Ball, scusa, me l'hai tirata lì, vedevo questa un'altra notizia di questa settimana, fra le tante, di George Clooney, grande bel attore hollywoodiano, che ha detto ho fatto il lifting ai testicoli, che si chiama Ball Ironing, me l'hai detto tu, quindi a questo punto. E prima di avere questo non fa l'amore al buio, allora non fa l'amore al buio, adesso censuriamo, silenziamo, come si usa dire in questo periodo, e tra poco sentiamo Angelo da Venezia, c'è Nadia Zammitti che continua a ricevere al numero verde centinaia e centinaia di telefonate, 800 24 00 24, poi avremo anche il nostro collegamento satellitare con un altro pianeta, ma prima Angelo da Venezia, che ci dice Angelo? Ciao Roberta, ciao, ben trovata. Grazie, ben trovata. Ti dico una cosa piccola piccola, spero di non togliere troppo spazio, ma tra tutte le notizie che tu hai citato di questa settimana... Sì. Possibile che ti sfugga, è sfuggito no, anche faccio a una Milan. Premessa, scusa, faccio una premessa Angelo, quando io all'inizio della trasmissione raccolgo, diciamo, qualche notizia in una sintesi estrema, dico sempre io vi faccio una sintesi estrema, poi voi aggiungete tutto quello ascolta, che mi pare. Ascolta, se dovessi fare l'elenco, Roberta, lasciami dire. Guarda, c'è una notizia che è un fiore e probabilmente diventerà un giardino pieno di fiori, che i consiglieri dell'Assemblea regionale siciliana hanno reso 120.000 euro del loro stipendio, da cui si farà un fondo per il microcredito. Sono tutti i consiglieri? Dimenticata tutti. Tutti i consiglieri? Ascolta Roberta, scusa, fammi aggiungere solo questo. Solo i grillini, a me risulta che l'hanno fatto già dall'inizio, l'avevano annunciato, non tutti i consiglieri, mi pare di capire. No, hanno reso 120.000 ma chi? Euro. Solo i grillini o tutti i consiglieri regionali della Sicilia? No, i consiglieri, sì, scusami. Angelo, ti sei dimenticato questa cosa? Diceva che mi sono dimenticata io, ma ti sei dimenticato tu anche questa precisazione, molto importante, l'avessero fatto tutti. Ascolta Roberta, quello che io disapprovo è che invece si faccia un gran parlare su questo evento mediatico che è successo, che aveva ragione Folli stamattina su Radio 24, diceva era più uno spettacolo di cabaret. Poi, sì, ma lo è stato infatti, e la gente guarda volentieri gli spettacoli, gli show, Roberta, i grandi show Roberta, in televisione. Scusa sì, un attimo, prego. Non sposta nulla, non serve a nessuno, forse solamente a voi per fare audience. Beh, e non adesso, mettiamo tutti nei calderoni. Adesso scatenare il pollaio che si sta facendo. Senti, Roberta, Angelo, quando chiamerò Silvio Berlusconi qui... Ti voglio bene, grazie. Ciao, ti voglio bene, ma lascia, accetta delle critiche. Ma certamente, ma comunque, Angelo, e lo dico a tutti voi, a tutte voi che state ascoltando, io, e chiaramente all'inizio, se voi vedeste dal sabato, questo che finisce, al sabato successivo, quante infinite notizie ci sono, le agenzie che arrivano ogni pochi secondi sul nostro computer, cioè, per esempio mi viene in mente anche questa ragazza stuprata a Bergamo, in una zona che conosco bene, Borgo Santa Caterina, 24 anni, incinta. E hanno trovato l'uomo, perché con le telecamere che ci sono in quella zona, poi proprio dietro c'è la questura, lo hanno trovato, questo kosovaro, ma poteva essere un italiano, con due figli incensurato, ma le telecamere lo hanno ripreso. Dov'è agli arresti domiciliari? Per esempio, mi chiedo, ma non doveva esserci un processo per direttissima per gli stupratori o colti in flagrante, oppure chiaramente identificati, perché le telecamere ha ripreso la macchina, lui, eccetera. Mi pare che altri dubbi non ve ne siano. Ma può stare agli arresti domiciliari uno così, secondo te? Secondo me non dovrebbe starci. Secondo me il problema delle carceri, che citato, saranno strapiene, certo, ma mettete domiciliari i ladri di polli, non gli stupratori, esatto, o gli assassini. Esatto, io credo che poi ci sia tutto un impianto. Questo è un paese strano, nel senso che molto strano, sì. Vive una realtà di un tipo e un racconto della realtà completamente diverso. Per cui, siccome noi facciamo finta di credere che le pene siano rieducative, ma contemporaneamente sappiamo che la realtà è diversa, cerchiamo di non mettere in prigione nessuno, non costruiamo prigioni, e quindi poi le prigioni sono cronicamente sovraffollate. Non le costruiamo. E non diamo, a mio avviso, non esistono pene sufficientemente severe. Credo che questo sia su certi reati, mi spiego su subito. Certi reati, certo. I reati che infrangono la fiducia, tipo quelli che hanno a che fare appunto con i grandi reati societari, o quelli che umiliano le persone, che minacciano la dignità delle persone, lo stupro per definizione di questi, dovrebbero, credo, essere puniti con molta maggiore severità. Il problema è che se la pena massima prevista è quella che è in questo momento in ordinamento, nessuno prende in Italia dai 2-3 anni fino a uno stupro, no, appunto. Neanche chi violenta un bambino. Credo che queste siano le cose che andrebbero radicalmente cambiate. Bisogna scrollarsi di dosso questo buonismo, questo pentitismo che ammorba tutta l'area. Per cui la prima cosa che succede quando qualcuno ammazza qualcun altro, ma è lo chiedere perdona alla madre se l'ha perdonato. È una cosa, ma questo io è irrilevante, è un fatto ogni privato. Ogni volta mi viene il sangue al cervello, cioè, quando sento queste cose. Il pubblico che commette un reato dovrebbe essere punito e reso, messo nella condizione di non ripetere quel reato. Pensate, tra l'altro, non solo è un'esperienza devastante per una donna, per sempre, in più questa sua gravidanza sarà legata sempre a questo ricordo. Ma vi pare possibile? Quest'uomo è ai domiciliari. Leggevo oggi che ha rischiato il linciaggio sotto casa. Da una parte è anche comprensibile il rischio, diciamo, poi non lo linciano. Portatelo in prigione che sta più tranquillo. Ma lei, tu ti ricordi quel ragazzotto che ha fatto fuori un'intera famiglia, madre, due figli, ha portato al suicidio del padre su paesi dopo qualche anno? È stato sostanzialmente, non ha fatto un giorno di prigione. In quale paese normale uno che ammazza una famiglia perché va a 150 all'ora in un centro abitato non va in galera per un tempo congruo e non è condannato a una pena risarcitoria congrua? Questo è quello che non si riesce a... Siamo perfettamente d'accordo. Un paese veramente bislacco, per dire un eufemismo. Che ne penseresti di una patrimoniale? Ma il tema patrimoniale è vago e minaccioso allo stesso tempo. Ti faccio un esempio. Già adesso, per esempio, se tu possiedi una casa all'estero come persona fisica, devi pagare le tasse su questa casa. Sì. Ma se la possiedi come società, non devi pagare le tasse. È bislacco anche questo. Non è bislacco. Chiamiamolo bislacco. Però allora il punto è, se vogliamo andare a colpire... Non si tratta di colpire, a mio avviso, i grandi patrimoni così. Si tratta però di colpire due cose. Intanto... di andare a prelevare le imposte sul reddito, dove il reddito si produce, dovunque esso sia, da un lato, perché questa è una misura di equità, appunto di uguaglianza, e dall'altra parte si tratta di rendere, di incentivare l'investimento produttivo e rendere meno incentivante, diciamo così, la rendita. Allora, se chiunque viva, non dico sapere economia, si accorge che quello che è successo in questi anni è che la finanziarizzazione dell'economia ha reintrodotto quella rendita contro cui gli economisti classici si battevano, dicendo appunto la rendita improduttiva bisogna invece avere legare all'investimento attivo le risorse. Tra protezioni fiscali, paradisi fiscali, condoni e finanziarizzazione, oggi chiunque abbia un capitale da investire ha molta più convenienza a trasformare in un capitale che produce una rendita che non in un capitale attivo che produce, diciamo, che, così, che dà anche un lavoro, profitto, poi, no? Lavoro e quant'altro. Esatto. Questo è il meccanismo che va rotto. Se per fare questo si tratta di mettere un IMU che colpisce maggiormente chi più ha e meno chi non ha, fino a esentare completamente chi ha veramente solo la casa, che per molti è stato un bene rifugio. D'altra parte, quando c'era l'inflazione, abbiamo spinto milioni di famiglie a proteggersi del mattone, e adesso, siccome non riusciamo, che è quello che è successo col governo, comunque, dov'è che abbiamo fatto cassa con il fisco? Nel limone e nei bolli, cioè le cose a cui non si può sfuggire. Recupero dell'evasione 6%. Allora. Mi pare quanto mai esigua. Andrea da Pesaro, tra pochissimo, abbiate ancora pazienza, Antonio da Roma, perché abbiamo stabilito il collegamento con Marte. Sì. Riflessioni da Marte. Qua su da Marte Questa settimana, volgendo il telescopio verso la Terra italica, si è visto un gran tramestio, un gran darsi da fare per assicurarsi poltrone e sofà, ma non erano tuttavia i saldi post natalizi di negozi di poltrone e divani. Erano tutti, o in buona parte, lo sono tuttora, eroi e in certi casi addirittura supereroi, pronti a sacrificarsi per la patria italica, poggiando con epico coraggio i loro popò su elevati scranni. Quasi tutti parlano di un sacrificio oneroso, quello di scendere o salire, in politica che dir si voglia, ma necessario per il bene del paese. Un professore, per esempio, imitando un navigato cavaliere, ha dichiarato che avrebbe ben preferito occuparsi di hobby, 3-7 e nipotini, e che candidarsi in politica è per esso un gesto praticamente contro natura, contro se stesso, ma che per il bene del popolo italico tutto ha solennemente deciso di sacrificarsi a sua volta. E mentre tutti s'affannano a immolarsi su questo nobile altare della patria e si guardano intorno in cerca di valorosi alleati con cui sacrificarsi insieme, di idee chiare e convincenti per il bene del suddetto paese non è che se ne siano sentite poi tante, a dire il vero, ma è probabile che, come più scaltri giocatori di carte, i nostri eroi amino creare la suspense per poi, zac, sfilare tutto d'un botto l'asso dalla manica e risollevare d'un colpo le sorti magnifiche e progressive dello stivale peninsulare. Sarà senz'altro così. Frattanto, però, su una cosa tutti gli eroi sacrificandi sono d'accordo. Lei non la conosce proprio nessuno. Non l'ha vista nessuno, nessuno ha già avuto a che fare, nessuno intende assumersene la paternità. E lei, immacolata ma urticante, immacolata perché concepita probabilmente grazie allo Spirito Santo, immacolata ma urticante, anche detta impopolare misura utile, per gli amici semplicemente IMU, praticamente figlia di NN, come si diceva una volta. È figlia tua? No, l'hai generata tu? No, sei stato tu a volerla. E oramai, che volenti o nolenti, ella c'è, forse discesa sui tetti delle case italiche a bordo di una meteorite, tutti prendendone appunto le distanze, come padri poco amorosi e imbarazzati da una figlia che non riscuote consensi praticamente da parte di nessuno, le vogliono fare il lifting, ognuno a modo suo. E mentre costoro dibattono in TV, e si dibattono la TV, un gran numero di cittadine e di cittadini italici, mentre attendono il declamato bene del paese, la notte non chiudono occhio, né il destro e neppure il sinistro. Sarà per questo che ovunque si giri canale, sulle TV private ci sono un'infinità di pubblicità ossessive, di materassi, tutti comportanza differenziata, ma non si sa quanta sopportanza, che ti rimbambiscono e ti assopiscono a forza di spiegarti a oltranza quanto sia imprescindibile riposare bene. Ritorniamo subito con i piedi per terra e sentiamo al numero verde 800240024 Andrea da Pesaro. Pronto? Andrea? Pronto Andrea, mica ti eri assopito col materasso, no? No, ah. no, anzi, con le parole del suo collega mi ha fatto un po' arrabbiare. Parsi? Quindi il mio intervento lo divido in due parti, sono molto breve. Il primo riguardo, il mio pensiero riguarda le affermazioni sulla condotta di Bersani in questa parte della competizione elettorale. Per me Bersani ha semplicemente scelto di non fare comunicazione, nel senso che, sapendo benissimo di vincere, non si espone in niente, dice banalmente che vuol cercare la polvere sotto il tappeto, ma non dice quali saranno i provvedimenti. Sì, è costretto a inseguire gli altri competitor sul discorso dell'IMU, dicendo sciocchezze, che sull'IMU sulla prima casa va abolita per i primi 500 euro. A me sembrano un po' i regali della Befana, se fosse stata detta il 6 di gennaio. Tu hai sentito, Andrea, che tutti, come diceva la Marziana, tutti vogliono fare lifting a questo IMU, non c'è nessuno che proprio la vuol lasciare così com'è comunque. Ma la cosa che mi fa più arrabbiare, sì, e lo dico Roberta con il sorriso, sì, è il suo collega, il suo lì come opinionista del giorno, perché quando una persona come me, semplice, normale, sente uno che è titolato, blasonato dall'università destra e sinistra, che vuole sdoganare una patrimoniale, a me no, non pare che fosse proprio così. L'altro ha fatto un discorso un po' più complesso, sì, Andrea. Sì, l'ha fatto un po' più complesso, ma non importa, la sostanza è quella. Però tutti questi bravi professori da scranno si dimenticano sempre di dire: mettiamola patrimoniale, ma mettiamola per che cosa? Perché dobbiamo cominciare a tagliare anche da altre parti. Mettiamola patrimoniale, ma tagliamo la pubblica amministrazione. Mettiamola patrimoniale, ma togliamo gli sprechi. Mettiamola patrimoniale, ma togliamo quegli stipendi esosi e ingiustificati dei dirigenti comunali, dei dirigenti provinciali, dei dirigenti amministrativi regionali, che non sono politici, sono nomine politiche, e gente sono che avrà un vitalizio che nessuno di noi si sognerà di avere. Quindi io penso che bisogna, e questo qui lo rivolgo al suo Vittorio Emanuele Pazzi, questa sì. domanda: perché tutti quelli che si riempiono la bocca di questa patrimoniale, e io sono uno che non ha niente da difendere come patrimonio, però si dimenticano sempre, prima di dire mettiamola patrimoniale o facciamo il ragionamento che ha fatto, sì, più complesso, riconoscerlo, sì. Perché si dimenticano sempre di dire: ma tagliamo a metà il costo della pubblica amministrazione. Sei stato chiarissimo, Andrea, okay. Sei stato chiarissimo, grazie. Salutaci Pesaro e le belle Marche e Vittorio Emanuele Pazzi. L'hai fatto arrabbiare, l'hai ripetuto più volte, l'hai fatto arrabbiare. Intanto, poi andiamo sulla patrimoniale, molto sinteticamente, se riesci. La condotta di Bersani dice, in realtà, lui dice andiamo a cercare la polvere sotto il tappeto, però non comunica, non dice che cosa vuole fare effettivamente, che mi pare che sia una cosa che riguarda un pochino tutti, non per difendere, ci mancherebbe, però è una critica che si può muovere effettivamente un po' tutti in questo momento, nessuno... Sì, questo sì, però l'ascoltatore ha detto un punto molto importante che condivido, Bersani era partito così, con la paura di comunicare... le sue intenzioni. Un po' sì, no, di comunicare in generale, cioè stiamo a basso profilo, come quelli che dicono aspetto a non valle, ci facciamo, no? Quasi vedere, sì, quasi mi faccio vedere, quieti quieti, le cose andando così noi vinceremo. C'era la preoccupazione delle altre campagne elettorali del centro-sinistra che erano state più, diciamo così, audaci e avevano prodotto risultati opposti. Mi pare che però proprio in quanto il panorama si è mosso, in quanto Monti ha iniziato una politica di comunicazione molto più aggressiva come strategia, al di là del fatto che poi la sappia gestire bene, questo è un altro discorso, tu capisci bene che per giocare una palla devi avere le caratteristiche fatte, adatte. Io non credo che se la comunicazione politica di Monti diventa troppo aggressiva, lui sia a suo agio lì dentro, quel tipo di cosa. Rischia di finire come qualcuno che Bersani, vuole... Bersani, dici? No, penso Monti in questo caso. Ah. Cioè, se Monti fa salire ancora un po' il suo livello di comunicazione in termini di aggressività, alla fine fa risaltare l'incongruenza tra lui e la comunicazione. Su Bersani credo che invece, appunto, partito in quella strategia, abbia iniziato a muoversi con una strategia più aggressiva. Sui contenuti secondo me qui bisogna fare molta attenzione, perché se si va a guardare nei programmi ognuno ha dei contenuti e tutti però dicono sostanzialmente cose piuttosto vaghe. In realtà poi le elezioni politiche è vero che non sono più decise dall'identità o dall'appartenenza, ma continuano a essere decise sostanzialmente da quanto ti fidi del fatto che colui il quale ti chiede il voto sarà in grado di realizzare non solo quello che dice, ma di andare in una direzione per cui le cose che dovranno essere necessarie in un tempo futuro che lui non può prevedere saranno quelle che tu potresti approvare. Ecco perché è così importante continuare a mantenere ferma la distinzione tra destra e sinistra, poter classificare, poter secondo dividere. Te, scusa, a questo proposito, prima di rispondere molto brevemente sulla patrimoniale perché abbiamo tempi stretti, perché Monti continua a parlare di centrosinistra come sinistra e non dice centrosinistra, invece sempre sinistra? Questo adotta lo stilema di Berlusconi, esatto. Cioè, Monti ha un'idea in cui esiste uno spazio fisico geografico che è il centro e che deve essere sgombrato, per così dire, da altri che devono essere respinte verso le estreme. Il problema è che il centro non è uno spazio geografico geometrico, il centro rappresenta, diciamo così, e non è neanche una questione di moderazione nello stile. In realtà il centro dovrebbe rappresentare quell'area in cui si concentrano maggiormente la più parte degli elettori, i quali possono gli stessi elettori di volta in volta avere, a seconda della situazione contingente, prendere un po' più da una parte. Ma scusa, tra l'altro Fini proprio ieri o l'altro ieri aveva detto da Lilli Gruber: ma noi non siamo centro, noi siamo un rassemblement, l'aveva inaugurato Berlusconi giorni fa, un rassemblement di donne e di uomini di destra, di sinistra e di centro che vogliono portare avanti il paese, vogliono fare qualcosa di buono. Quindi adesso gli sta pure stretto un po' termine. Però capisci bene che a questo punto, da un lato, è la riduzione dai tempi di Minghetti, dai tempi di De Pretis, dai tempi, diciamo così, post, anzi, dai tempi di Cavour, il trasformismo è sempre stata la caratteristica italica. Ed è stato il modo. Nessuno ti dirà mai mi candido e cerco di muovere in maniera tattica. Tutti ti diranno che si muovono per un interesse generale. Però già il fatto che qualcuno si candidi con l'obiettivo preciso, o si muova in comunicazione di strategia elettorale con l'obiettivo di impedire la vittoria di qualcun altro, stride un po' con l'idea che stai perseguendo un interesse generale. Perché credo che questo paese abbia in questo momento una esigenza: che qualcuno vinca e governi, punto. E sul fatto che Vendola possa essere inquietante, ma Vendola però capo l'Europa. Dall'altra parte, Buttiglione, quando è stato fatto, si è cercato di farlo commissario dall'Europa. Sui gay cadde, sui gay. Allora, prima della viabilità, ti voglio chiedere, questa sentenza della Cassazione di questi giorni, che ha deciso di affidare definitivamente una figlia o due figli, non mi ricordo, alla madre che nel frattempo sta con una donna in una relazione d'amore, e dice in realtà i figli possono benissimo crescere anche con una coppia omogenitoriale, come si dice, cosa ne pensi? Penso che le sentenze, giustamente, non innovano, ma le sentenze guardano il caso di specie. Allora, dei giudici non hanno detto è legittimo o non è legittimo il matrimonio, la famiglia tra persone dello stesso sesso, eccetera, eccetera. Questo compete giustamente ed esclusivamente al Parlamento di stabilire che cosa è legittimo, perché noi possiamo dire cosa è legale in realtà, sostanzialmente molto di più non riusciamo ad andare rifacendoci un'idea di giustizia. Ma la sentenza ha detto una cosa diversa, ha detto: rispetto agli interessi del bambino, quello che devo valutare non è un presupposto di carattere appunto legislativo superiore, se le famiglie possono essere fatte così o cos'ha, ma è il bene del bambino. Rispetto al bene del bambino, in questo caso specifico, tra il padre mi dice una cosa che ha una certa condotta e la madre che mi dice una cosa che ha una certa condotta, giudico che per il bene del bambino sia meno dannoso, usare proprio il termine più blando che possiamo dire, stare in una famiglia fatta da due madri, o da una madre e un padre dello stesso sesso, che non stare in coaffido con l'ex padre e l'ex madre. Questo ha detto, questa è la sentenza. E credo che i giudici abbiano dimostrato una cosa sostanzialmente, di fare il mestiere del giudice. Ripeto, il mestiere del giudice non è creare un principio, ma di analizzare con serenità, applicando la legge esistente e in coscienza, nell'interesse del soggetto debole. Questo ha fatto. Milenka, da Milano. Pronto? Sì, siamo qua. Buonasera. Rapidamente, volevo fare un piccolo aggiustamento al commento sulla sentenza della Cassazione sulle coppie gay. Sì. In realtà la Cassazione ha affermato un principio che è di ordine giuridico, assolutamente giuridico, e ha detto che non è sufficiente affermare semplicemente che un bambino non può crescere tra due genitori dello stesso sesso, ma è necessario dimostrare nel caso specifico che questo è dannoso. Per cui non ha proprio affrontato il problema come la gente sta dicendo, come i mass media stanno dicendo. Non è così, la Cassazione si è limitata che bisogna dare la prova che l'avere due genitori dello stesso sesso è dannoso, cioè bisogna darne prova, è un problema processuale. Mi spiego? Che lavoro fai, Milenka? Sono avvocato. Avvocato, non avevo dubbi. Grazie, no, Milenka. Ha ragione, perché la Cassazione entra sulle procedure, non entra sul merito della sentenza. Dal punto di vista tecnico non c'è dubbio, ma dal punto di vista sostanziale la Cassazione ha detto, e su questo sono d'accordo con la nostra ascoltatrice, ha detto si guarda nel caso, non si applica un pregiudizio o un preconcetto o un giudizio precedente. Però diciamo formato, che un po' apre, no? Scusa la tautologia, una certa apertura maggiore verso certi temi e non per forza pregiudizialmente a essere subito, no? Sì, quello sì. Dopo dovremmo chiederci anche, secondo me, su tutta questa materia in questi 20 anni, io credo che la società moltissimo sia su una posizione su tutte queste questioni etiche, e il corpo politico per motivi che poco hanno a che fare con la società è su un'altra posizione. Allora adesso abbiamo è caduto forse no qualche ascoltatore, no, l'800 24 24. Vi ricordo che c'è anche la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, tantissimi i vostri commenti anche per esempio su questa congiura internazionale che di nuovo ha citato Berlusconi, che l'avrebbe fatto cadere. Ma abbiamo adesso il nostro appuntamento con il nostro Don Severino da Potenza. Caro Don Severino, che ciao, cosa Roberta ti ha colpito? Ciao caro, questa settimana. Buon ritrovo. Grazie per l'ospite di oggi. perché è intelligentissimo e modestamente straordinario. No, veramente. E stamattina mi ero svegliato tutto contento, perché leggendo Sallustri, la prima pagina, ho detto, ma guarda, in Italia le coppie gay possono adottare, ma che cosa straordinaria. Poi ho letto Avvenire e ci ho creduto ancora di più, perché è iniziata la sua guerra, logicamente. Allora, ecco, io volevo dire semplicemente una cosa, che non è successo assolutamente niente. La gente di stare tranquilla e di non leggere Avvenire, di non ascoltare quello che dice la Chiesa, ma di cominciare a credere alle cose vere e possibili. E poi mi espongo un po' di più. Oddio santo. Ero un po' d'accordo nel votare Monti. Invece voto Bersani. Non diamo indicazioni perché? Di voto. Don Severino. Mi raccomando. Semplicemente perché Monti l'ha sponsorizzato la Chiesa. A suo tempo sponsorizzò Berlusconi. Vabbè, solo in confessionale, solo in confessionale si dice. Grazie Don Severino. Ciao. E cosa tu mi fa tremare ogni volta, la voce mi si abbassa ancora di più. Abbiamo adesso l'altro appuntamento con la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale chiederei, cara Valeria, questa benedetta agenda. Cioè, no, agenda, sì, la parola più che nominata, il nostro ospite in non questo, in questo periodo, d'accordo. Allora, beh, agenda sappiamo tutti nel significato di taccuino nel quale segniamo le cose che dobbiamo fare. Poi da qui più recentemente nel Novecento si è diffuso il senso degli impegni, il programma delle attività previste, e quindi in questo senso ecco che nel senso di programma è stata molto usata in ambito politico e continua a essere usata tuttora. Ma che cosa voglio ricordare? Una cosa un po' meno nota, da dove viene la parola? Tutti intuiamo che è una parola latina, infatti lo è un gerundio, agenda, e significava cose da fare. Ma la cosa che forse non tutti ricordiamo è che nell'antichità cristiana agenda era il nome abbreviato del libro guida della messa, che in latino si chiamava appunto agenda diei, agenda del giorno, e indicava le funzioni religiose del giorno. Poi nel Medioevo la stessa parola è stata usata per indicare la raccolta delle preghiere e delle cerimonie per l'amministrazione dei sacramenti. Dove voglio arrivare? Beh, al fatto che d'ora in poi, intanto, tutte le volte che sentiremo nominare questa parola, faremo così quasi un pensiero mistico religioso per sopportare tutto quello che l'agenda ci propinerà. E poi da un punto di vista invece positivo, agenda è una parola internazionale. È una parola latina, ma che viene capita e usata in tutto il mondo, quindi benvenga l'agenda. Grazie Valeria Della Valle, benvenga ogni volta, benvieni pure tu. Siamo un pozzo di scienza questa donna. E invece volevo dirti, caro Vittorio Emanuele Parsi, a Monti è stato chiesto, ma lei si sta togliendo dei sassi dalle scarpe? Lui dice, no, mi sono semplicemente infilato scarpe della mia misura, anziché scarpette da danza classica che sono stato costretto a indossare in questi 13 mesi. Cioè lui dice di aver fatto delle piroette su... Ma quello dal punto di vista oggettivo credo che possa essere possibile, cioè, attenzione, non c'è dubbio che fatto quando sforzi, si è al governo sostanzialmente sulla nome del presidente, cioè di un governo presidenziale che si presenta con un governo di salute pubblica in cui la maggioranza e l'opposizione sono messi tutti insieme. Ma io ti interrompo, guarda un po', voglio essere proprio provocatrice, e siccome mi piace questa cosa, il tuo libro si intitola La fine dell'uguaglianza, e pensa che la crisi sta determinando anche il modo di rubare. In Gran Bretagna c'è un fenomeno del furto dei passeggini, e in America il Tide è il detersivo più rubato, che addirittura gli spacciatori si scambiano, uno gli dà la coca e l'altro gli dà il detersivo, o lavano molto. So, questo per dire come stanno cambiando le cose. Ma vi devo salutare, devo ringraziare Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni esterne e relazioni internazionali e editorialista del Sole 24 Ore, e da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.